Grazie Presidente, breve circonciso. Go hell Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. E buonasera, bentornati e bentornate a Fuoco alle Polveri. Scandiscilo puntata. Cosa devo scandire meglio? Fuoco alle polveri. Polveri. Non so se avete capito bene. Fuoco alle polveri. Avete sul sentito? Radio. Sul radio Wombat. Wombat. Wombat. Alla regia Dlago. D-L-A-G-O. Poi abbiamo un Grippo a supportare con supporti tecnici. E abbiamo un grandissimo ospite. Ciao a tutti. Eccolo. Grande. Come si chiamerà? Come si chiamerà? Non lo sappiamo. Da qui. Comunque è un compagno della polveriera. Ciao a tutti, io sono qua per presentare la giornata di 16. Aspetta, subito, non correre. Come un treno, no, tu prima sei troppo impaziente. Di cosa parliamo? Allora, noi intanto puntata numero 88. Ho un sacco di cose da dirvi sull'88, potete scegliere. Ce n'è uno un po' nazi, ce n'è uno un po' invece più tranqui, un po' varie un po' nazi sarebbe. Io voglio anche la nazi, sì. Allora, intanto 88 sono i tasti del pianoforte. Ah, facile, giusto? Quindi facilissimo, bianchi, neri, non so. Vabbè, un po' divertente, comunque, dai. Esatto. Poi ne abbiamo un altro invece che è il numero atomico del radio. Non lo so se ci chiamo un po' in causa questa cosa. Radio. Secondo voi? Ah, perché si chiama radio. Numero atomico del radio. Un po' forzatino. E era un numero particolarmente caro ai nazisti perché 88. È facile, è infinito. Perché infinito. No, col cazzo. No. L'8 era, è l'ottava lettera dell'alfabeto, che sarebbe la H. E quindi Hitler. Era questo. E quindi un po' loro quando dovevano di garbava, sì, esatto, di garbava 88. Non solo, ma durante la seconda guerra mondiale usavano un cannone con una, come si chiama, con un calibro che era 8,8 flake, apposta per stiante a tutti Adolf. Esatto. E quindi molto caro ai nazi. Bello. Quindi no, a noi no. A noi no. Quello altro divertente no. Invece ce ne avevi no, altri. Vogliamo sapere. Pianoforte, te l'ho detto. Il numero atomico del radio. E poi anche in codice Morse. Si utilizza in codice Morse l'88 per dire Peace and love. Sì? Peace and love. Esatto. E 88. Questa era mezz'ora del pomeriggio di ieri di Briccobaldo. No, scusami. Love and kisses. Love and kisses. Okay. Love and kisses. Vabbè, il saluto buono. Sì, esatto, quindi un po' un freak. Bene. E poi quindi di cosa parliamo? Abbiamo già detto, a parte no. l'88? Sì, a parte sì. l'88 è già okay. preso tanto tempo. Esatto. Vai. A parte l'88 abbiamo appunto un compagno della polveriera che ci introduce alla passeggiata che vi sarà a sabato. Il 16, durante la insomma, poi sarà una passeggiata barra evento barra giornata dalla mattina fino alla sera con anche ospiti anche di oggi arriveranno a Disco Rebel Foundation. Forse. Arrivate? Disco Rebel. Arrivate, dai. Siateci. Vi aspettiamo. E poi? Altra presenza sarà quella del Percorso Psiche, che è un collettivo composto da varie figure professionali, se così le vogliamo chiamare. Poi no, non sono professionisti, cioè nel senso non sono liberi professionisti, però questo collettivo si occupa di salute mentale. Già stati ospiti a Fuoco alle Polveri esattamente un anno fa in occasione del primo festival, la prima edizione del festival Il Manicomio Invisibile. Quest'anno siamo alla seconda, fra pochissimo, cioè questa settimana, e quindi verranno a presentare la tre il giorni loro... tre, beh, sono più di tre quattro giorni, ho visto. Sì, sono 4-5 giorni, sono diviso in tutto cinque marzo spezzoni. Tutto marzo pieno, praticamente, sì, diviso fra stage teatrali e invece incontri frontali con vabbè, ne parleremo più tardi con le vabbè, ragazze. Mi deliziamo con un pezzaccio. Forse anche cinema alla fine. Forse anche cinema, però sì. È tutto un forse. Tutto se un arriva, forse. Se bene. Magari no, se sta inserendo. Ci siamo solo noi. Tutto il tempo. Ah, ma poi abbiamo notizie dal mondo di Nerdella. Bello. Ora inizia. Canzoncina? Prima via. Un pezzo, va bene, compagnero? Sì. Ok. Wax Taylor, Positively Inclined. Dai. state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. Got the racks, got the tracks, that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Yo, it's the W-A, X to the Taylor, combined with the crew that brought you cosmic plays. State of mind, and we came to invade ya. Save for the raiders of mics across faders on our way to the neighboring nation, craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation, and raising the stakes with the naked sensation. It's inspiration, mics on the table, insulation, it's wrapped around the cable. Intonation, treble bassin, devil chaser with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mind's gone weary, but the lines come clearly. Einstein's theory, answer to your queries. We equal MC squared, can you hear me? A state of mind, funky with the rhymes are positively inclined. Halo, the racks got the tracks, that's refined. One of a kind, sit back and recline. Shift focus, clown shit smokers, loud hip hocus, pocus through the dopest and I hope this, quote sets, note this, console blows and it's just too much to cope with, it's hopeless, oh shit, now the ropes rip, over the microphone cord, oh lord, samurai sword, all aboard, and swarm the stores like some Mongol hordes, cause it's F to the U, A, P to the Y, from the B to the O, E, T, and I fly, the way that we flow more money to sky. Not a single eye dry. Yeah, yeah. A state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. Halo, the racks got the tracks, that's refined. One of a kind. Sit back and recline. No aggression, making it fresh like a Tribe Called Quest, cause we dwelling on this section. Uh-huh, and if you're swell-headed and stressing, then leaving fellas in recession. Fate says go away, yo, come to the show and check the ASM flow. And now you know, the state of mind, funky with the rhymes are positively inclined. Halo, the wax got the tracks, that's refined. One of a kind, sit back and recline. Yeah, that's right, the state of mind, funky with the rhymes are positively inclined. Halo, the wax got the tracks, that's refined. Space and time the bass in line. Hey! Hey! Voilà! Torniamo nella regia dopo il fantastico pezzo di Grande Lago. Oh, chi erano? Come già anche Grande Lago all'inizio. Chi erano? Wax Taylor. Un repettoso DJ-oso americano molto compagnoso. Quindi bravo. Ci piace. Allora, si va al sodo? Che dite? Dai, compagno, polveroso. Dai, allora intanto ti vuoi presentare? Non proprio, vuoi rimanere anonimo? Anonimità è meglio. Vai. E che cosa ci presenti? Si parla di sabato, vero? Io ci parlerei proprio della giornata di 16, che è abbastanza importante per tutti. Esatto, quindi dove, intanto? Dove? Secondo me in più spazi possibili, nel senso, la giornata di 16 non si svolge solo a Firenze, ma è una giornata che si svolge pure nelle città più grandi, cioè non vorrei parlare solo di Firenze. 16 viene come una giornata molto di recente dopo la repressione che è successa a Torino, e per quelli che non ci saranno a Firenze, secondo me tutti saranno nella città di Trento per il corteo contro gli arresti che ci sono successi ai nostri compagni anarchici. Comunque, se vogliamo ritornare a piano comunque di noi non saremo dipende a Torino. No, te sì, ti lanci la giornata e poi scappi a Torino. Esatto. A Trento, scusa. No, ci ho preso anche dei accogli a Firenze, stranamente. Però va bene. Un accollo. Comunque. Per quelli che non siamo, che siamo poco seri, rimaniamo a Firenze. E dove esattamente? dove? Nel quartiere di San Lorenzo, perché per la prima volta, forse in anni, la Polverera ha deciso di uscire da casa sua e espanderci. Bella, bella, grandissima storia. Novità questa qua. Ma com'è che non gli è venuto in mente prima? Boh. Sono un po' sfaticato. Non voglio esprimermi queste cose. Domanda delicata. Si vanno a toccare equilibri assembleari. Però non importa che è successo in passato, importa solo il fatto che adesso noi siamo pronti solo per uscire fuori e comunicare con l'esterno. Ecco. Buono. Bene, quindi uscire fuori e comunicare con l'esterno con chi? Con chi? Sì. Boh, col pubblico che ci vede, specialmente con sta città che nell'ultimo tempo sta prendendo sempre più direzioni a limitarci lo spazio e trasformare i suoi propri cittadini di seconda classe intorno ai turisti che se lo possono permettere. Ecco, ecco, spiegaci un po' il caso preciso, peculiare di San Lorenzo. Il caso specifico di San Lorenzo, oltre al fatto che non possiamo nemmeno più parlare italiano, vabbè. In ogni caso, noi abbiamo fatto pure un'analisi nell'assemblea di Polveriera su quello che vorremmo toccare in San Lorenzo. I nostri analisi era il fatto che è abbastanza difficile parlare con un quartiere dove la maggior parte dei cittadini non esistono, è tutto fatto di Airbnb. Le bancherelle vengono discriminate, sto parlando della parte dei migranti in San Lorenzo. Uh-huh. Io ce l'ho proprio su in mente sul fatto che ancora ci sono le certi che da un anno nessuno li vuole coprire. Però il problema di San Lorenzo è che è un quartiere non più vivibile per una persona che vorrebbe stare a Firenze. È un quartiere dove se qualcuno vuole andare in bici deve smatare nei peggior modi. Un quartiere dove non trovi nessun senso come fiorentino o come persona che si vive Firenze di starci, tranne la Polveriera oppure il polo universitario. L'unica... Sei un po' di parte o sbaglio? Ma... E vabbè, oh, ci sono qui apposta. Comunque, no, tranne il fatto che c'è il residence dei studenti, non vedo la presenza in questo quartiere di esistere come persona che si vive la città. Non c'è nessun spunto e viene sempre più scoraggiato. E questo è il motivo per quale noi vorremmo uscire fuori dal nostro luogo e farci una passeggiata nei nostri dintorni. Lo capiamo benissimo che è una cosa molto difficile, essendo pur la prima volta, ma sperando non l'ultima. Sarà un po' così, però noi ci proveremo a fare un lavoro per bene. Esatto. Intanto, secondo me, bisognerebbe un attimo contestualizzare la Polveriera nel quartiere. Nel senso, anche da un punto di vista proprio fisico, da un punto di vista edilizio. Cioè, dove è situata, in che punto del quartiere, che caratteristiche ha? Perché non è un luogo che affaccia direttamente sulla strada, se non mi sbaglio. Esatto. La Polveriera è semplicemente un chiostro bel nascosto, dove sai della Polveriera solo se o sei della mensa o fai parte della vita del chiostro che negli ultimi tempi si sta confrontando con dei vari problemi. Uh-uh. Oppure se lo sai, generalmente tramite eventi o perché siamo compagni o cose così. Allora, la Polveriera è abbastanza in una situazione delicata perché è difficile che si esprime con l'esterno se sta sempre chiusa dentro. Allora questa passeggiata dovrebbe essere un punto anche di farsi conoscere nel quartiere, ma secondo me, anche sapendo la situazione delicata del quartiere, che alla fine i cittadini sono pochi nel quartiere in quale potremmo parlare, sarebbe più anche un lavoro di denunciazione delle situazioni esterne che li subiamo. Ah, sì, sì. Ma io non c'ho Va bene. No, esatto, è un po' un punto che viene toccato da... È un po' un punto focale nella storia dei centri fino a oggi, ecco. Scusate, siamo un po' in un caos, stanno arrivando degli ospiti e non siamo preparati. Comunque, si diceva, questa uscire dai luoghi, no? È anche una cosa che, a parer mio, va contro la narrazione che viene data quotidianamente dai poteri e dai politici, dalle amministrazioni, dai giornali, dalle televisioni, dei centri sociali. Centri sociali quali? Luoghi di facinorosi, luoghi di... persone ultraritiche che tendono a vandalizzare, invece diciamo che queste passeggiate vogliono andare un po' a screditare questa visione, a portare fuori i contenuti di una cultura, di una sottocultura, se la vogliamo chiamare, io preferisco dire una cultura vera e propria, autonoma, auto-organizzata, non semplice, non sempre limpida, però a portarla agli occhi di tutti, ecco, per alla fine a me viene da dire raccogliere un consenso, poi consenso non è la parola giusta, raccogliere una legittimità, puoi condividere? Scusa. Il percorso delle nostre passeggiate è un percorso di realtà comune che succede con tutti, non con tutti, con la maggior parte dei centri sociali di Firenze, con quale siamo presi la piega in comune di farci queste uscite insieme, uno dopo l'altro, per far vedere che questo screditamento, oltre che non è vero, noi dimostriamo, oltre all'autogestione, il fatto che noi possiamo essere semplicemente qualcosa di meglio, sinceramente. Tipo la passeggiata di Corsica ha fatto vedere tutti i posti che vengono comprati nel quartiere di Rifredi, specialmente della zona Dalmazia. Parliamo di Esselunga e tutti questi posti qua che vengono costruiti senza bisogno. Ecco, quindi quello vuol dire, quindi anche la passeggiata di sabato fetterà un po' su questa è un su percorso, queste qua. Sì. È un percorso che è un po' prima della passeggiata di Leone, dell'occupazione di Via del Leone, è un mese prima della passeggiata di 25 aprile di Emerson, che sarà per, non mi ricordo, il percorso dei partigiani. Questa mi e i sentieri sono partigiani, esatto. Sono sentieri che partono lì nei pressi dell'Emerson e che si inerpicano su per Monte Morello e... quindi sì, ve ne hanno già fatte alcune loro, fra l'altro. E... ma questa qua sì, si sono ripromessi di rifarne una il 25. Buonasera, intanto sono arrivati nuovi ospiti, li abbiamo lasciati chiusi fuori, infatti sono piuttosto arrabbiate, è vero? No, non è vero, non se la son presa. Allora, tornando a noi, la passeggiata quindi andrà un po' a toccare i luoghi simbolo della gentrificazione, esatto, della turistificazione del quartiere di San Lorenzo, che direi è già un pezzo in là. Si può citare il mercato, possiamo citare le vie limitrofe. Vedremo lì per lì e facciamo una sorpresa. Esatto. E quindi c'è questa nuova narrazione che passerà, immagino, anche attraverso esperienze nuove come la passeggiata, ma anche magari a una vera e propria comunicazione diversa. Esatto, la comunicazione dovrà essere, io direi, anche visiva molto di più. Stiamo anche in un'era dove la gente non è più abituata a sentirsi discorsi se sono più di un minuto lunghi. Allora, io, secondo me, tutti stiamo puntando verso, sicuramente la Polverera come percorso è stato sempre un percorso più culturale, visivo, musicale, non per forza discorsi scritti o citati. Per esempio, io spererei di portare il carrello, anche se forse porteremo un'altra osa. Per carrello, il carro, il dai. Il carro, mi sembra. Carrello sembra una cosa. Il carro che noi come Polverera abbiamo costruito per il carnevale autogestito di 3 marzo, che è un carro che doveva esprimere tutte le attività che si sono fatte in Polverera nell'ultimo anno. Le hai espresse, direi. Espresse e continuano a esprimersi, soprattutto parliamo del fatto del nostro caro nella sua costruzione è già una pratica dell'autogestione, perché chi l'ha fatto non sapeva nemmeno farlo, è riuscito pure a farlo solo volendo, imparando. con la volontà, esatto, certo. Non sfidarsi da soli, che quella è l'autogestione, secondo me. Senti, ma invece dopo la passeggiata che cosa... Comunque la passeggiata non è la prima cosa che succede nella giornata di 16. Infatti, allora iniziamo dall'inizio, forza. Esatto, perché la Polverera riporterà una cosa che non succede da un bel po' di tempo, dalla chiusura del cancello, il mercato mano in mano. Vero. Bellissimo, bellissimo, di mano in mano, il mercato dell'usato. Esatto. Che storicamente è stato ospitato nella Polveriera, poi ha girato a diversi posti. Dove ma io posso dire, ho preso un bel cappuccio volta, fatto 8 prodotti ai miei amici. Cioè, io ho preso una delle più belle cose che ho preso nella mia vita. Io ho preso una giacca di velluto a 3 euro, bellissima. Una volta ho preso una bicicletta e me l'hanno inculata il giorno dopo. Vedi? bellissima, bella. Va bene, quindi mercato fin dalla mattina, giusto? Esatto, ma fin dalla mattina. Ma la novità è, ma dov'è sto mercato esattamente? In questa polveriera? Diciamo che ci sarà un'apertura un po' storica nei dintorni. Ecco. Non entriamo nei dettagli. Benissimo, sono previste anche delle installazioni di fotografie, se non mi sbaglio. Sì, anche a me. E poi la passeggiata. Io personalmente, se c'è bel tempo, vorrei accolarmi anche di fare una piccola mostra dei quadri. Buono. Diciamo non i migliori modi, però proviamo a trovare una soluzione. E se c'è bel tempo, Io vorrei fare anche una grigliata. Questa in barba alla legge antifuego. Comunque verso il pomeriggio partiremo a fare la passeggiata. Probabilmente porteremo il discorso di antituristificazione, che lo stiamo già portando a bel po' di tempo, con personaggi come autori di Firenze No Cost, oppure della Rete Set, che già sta facendo un percorso un po' da mesi su questo discorso. È vero. E una volta tornati qui ci sarà una cosa che, anche questa è una parte storica a polverare di quanto mi si è detto, i Disco Rebel Foundation. Oh, Disco Rebel Foundation la sera, previsti sì alla polveriera e anche oggi qua, ma non sono ancora arrivati. Quindi vedremo. Disco Rebel Foundation. Devo avere un'opinione. Soldi, puoi averla se vuoi. No, vabbè, no, sì, dai, anche no. Me volete, però. Solo se non l'opinione è bella. Dice. No, dai, ce la vuoi dire? Non mi piacciono i loro drink. Ah, vabbè. Il loro drink? Sì. Ah, è una questione di alcohol. Quindi. E vabbè, ci sta. Io sono quasi astemio. Penso un po' te quanto possono piacere a me. A te ti piacerebbero per la questione dei drink. Sì. Dicono che ci piacciono. Analcolici. Va bene, ok. Vabbè, allora. Stacchiamo con un pezzettaccio. Stacchiamo con un pezzettaccio. Dai, senti, caro compagno della polveriera, se vuoi puoi rimanere con noi a fare tutta la puntata. Abbiamo in programma. Voglio costruire qualcosa, stai scendo giù. Dai. No, puoi costruirlo qua con noi. Ah. Bracci, potrebbe essere anche figo. Sì. Microfono aperto, microfono sulle aperto. Costruzioni. Bam, bam, bam. Via. Andiamo, direi. Bene, vai col pezzo. Calypso Rose è il nome del gruppo. Calypso Blues è il nome del pezzo. Via. Wombat, wombat. Wombat. How she feels so sad because a record of the delightful piece they're going to play this evening. Grippo ride, non si è capito bene perché. Contento, lascia la fare. È colpa mia, un merito mio. Buonasera, intanto. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. E tutte anche, dai, abbiamo appena passato la festa a tutti e tutte, e poi avremo anche occasione di riparlarne. Probabilmente ci sono delle dichiarazioni fenomenali della Santa Anche. Ma a quest'ora, oggi, ora, parliamo del percorso Psiche e di quello che sta organizzando, cioè il manicomio invisibile. Esatto, il manicomio invisibile, eravamo già arrivati l'anno scorso nelle università. Vero. Infatti appunto il nostro collettivo nasce un po' da un incontro tra due collettivi che sono Laboratorio 15 e Codice Rosso, e l'anno scorso avevamo fatto questa iniziativa con stesso titolo, il manicomio invisibile, anche stessa grafica per chi la vedrà e per chi l'ha vista. E parlando della legge Basaglia, posso dire una cosa? Dimmi. C'è un omino. Esatto. Con stilizzato, esatto, più o meno stilizzato, con la testa all'interno di una gabbia. Esatto, sì, no, ci sono due omini. Due omini. Uno è stilizzato, esatto, uno è totalmente dentro una gabbia, l'altro invece ha soltanto la testa dentro la gabbia. Ecco, vorrei che ci spiegassi il significato di questa cosa. Mi sembra particolare, rappresentativo. E infatti, poi vabbè, le immagini sono di Ugo Guarino, che è un artista triestino, appunto, che ha realizzato poi queste immagini anche come legame con l'esperienza basagliana. L'idea è proprio quella del manicomio invisibile, cioè quella di ciò che rimane di un'istituzione che è totalizzante anche una volta che questa viene distrutta. Quindi dentro un manicomio sei palesemente ingabbiato, quando sei fuori da un manicomio, quindi quando i manicomi non ci sono più, non è detto che tu sia del tutto libero, perché nelle nostre menti, nella nostra cultura prevalentemente rimane quello che è un'istituzione sociale, quello che ti lega e ti ingabbia. Quindi appunto anche il titolo della nostra iniziativa è tutto collegato. Parliamo di manicomi invisibili, di residui, di istituzioni sociali che oggi appunto nella psichiatria, ma non solo, come vedremo quest'anno nel nostro ciclo di iniziativa, abbiamo ampliato l'argomento anche al fenomeno delle migrazioni, che poi producono psichiatria, e tutto ciò che comunque permane di quella mentalità e di quella cultura della oppressione e della repressione, disumanizzazione. Non solo, perché c'è anche una terza giornata dove si vanno a studiare le metodologie di resistenza. Esatto, metodologie di resistenza, perché ovviamente volevamo dare anche una nostra proposta o quantomeno interrogarci su quello che potrebbero essere le proposte e le risposte a questi fenomeni di oppressione. Quindi nel nostro percorso abbiamo affrontato anche un po' proprio come collettivo, in prima persona, la domanda: com'è che noi possiamo in qualche modo resistere e combattere l'istituzione sociale nella quale poi ci troviamo a vivere? E appunto nella terza giornata volevamo presentare quelle che sono le forme di autogestione, di collettività, e che possono essere da Napoli, se pazzo, oppure anche a realtà più piccola all'interno dell'area fiorentina, come studentato gestito PDM, o come lo può essere uno stesso collettivo, quindi auto-organizzarsi, fare collettivo, fare comunità, creare comunità attraverso strade diverse, perché non c'è una sola strada, appunto. Ci possono essere varie forme di autogestione, di creazione di comunità, che è la prima forma che a livello appunto è la forma in cui ciascuno con le proprie esperienze, con le proprie competenze, conoscenze, non bisogna avere competenze sanitarie eccetera, può mettere in atto per creare quello che viene chiamato anche dispositivo, cioè una mobilitazione in qualche modo di energie e di saperi per far fronte a una situazione emergenziale. Quindi la collettività e la creazione di comunità, questa sì, è un po' la nostra analisi. Era un po' una cosa, ti ricordi Grippo, che diceva Robert Whittaker, se lui si riferiva, sì, al modello finlandese, se non mi sbaglio? Sì, in realtà Lappone, proprio di una sì, regione. Però lui si riferiva a quel modello lì come un modello quasi non replicabile, cioè nel senso raro, perché poiché avveniva in una comunità molto piccola, in cui diciamo la società sopperiva ai problemi che si generavano dal distributore. Sì, la società, la comunità, per la comunità, sì, sì, era i rapporti sociali, tutto basato su quello, insomma. Bene, sì, quindi queste sono le tre giornate, ripetiamole anche con le date, perché si inizia da mercoledì. Sì, appunto, si inizia da mercoledì 13, quindi questo mercoledì in settimana. E, dove? Al plesso di psicologia, quindi via della Torretta, in aula 11 in particolare. Alle ore? Alle ore 16. Sì, perfetto. Quindi saranno tutti comunque incontri pomeridiani a partire da questo mercoledì. Si proseguirà questo mercoledì in particolare, la tematica di base è psicopatologia del processo migratorio, quindi si parlerà con un'ottica molto attuale, quindi al fenomeno dell'immigrazione, grazie anche ai relatori che saranno dottor Salvatore Inglese, etnopsichiatra, e professore Andreas Formiconi, che è invece docente in scienze della formazione. In particolare si occupa di un CAS, appunto si analizzerà il fenomeno dell'immigrazione dal punto di vista di salute mentale, e quindi l'impatto sociologico che ha oggi. Questo è una ricerca abbastanza, insomma, è un campo di ricerca abbastanza recente, se non mi sbaglio. Esatto, soprattutto quello dell'etnopsichiatria, appunto solo ora, però comunque. Ma solo ora, perché i fenomeni migratori arrivano, cioè, sono nuovi oppure? No, assolutamente. Vabbè, dai, sto scherzando. Oppure perché ci siamo accorti solo adesso? No, vabbè, la cosa interessante dell'etnopsichiatria è che le ricerche etnopsichiatriche nascono negli stessi anni in cui in realtà veniva portata avanti la rivoluzione basagliana. Quindi comunque c'è una concomitanza di, secondo me, momenti in cui si ricercavano delle teorie e delle pratiche per andare oltre. Quindi adesso effettivamente l'etnopsichiatria viene messa in funzione anche di quello che è il fenomeno migratorio, però come nascita è antecedente e sì, è stato portato l'occhio più adesso su quella che è l'etnopsichiatria, anche se molto spesso gli etnopsichiatri stessi si lamentano di questo utilizzo dell'etnopsichiatria in termini esclusivamente rivolti verso la figura del migrante, perché in realtà l'etnopsichiatria è un approccio più ampio che parte dal presupposto di abbattere l'etnocentrismo, quindi qualsiasi cultura, i suoi sistemi di riferimento, e quindi anche le stesse malattie, gli stessi disturbi che possono essere poi psichiatrici vengono in qualche modo, vanno letti all'interno della cultura di appartenenza, e soprattutto quello che ci forma come esseri umani è proprio la cultura in cui nasciamo. Quindi niente. Beh, piccola sì. Parentesi. Bellissimo. Poi il secondo giorno invece dicevamo la... Sì, il secondo giorno si terrà, cioè sarà venerdì 15, quindi sempre lungo questa settimana. Questo è interessantissimo. Esatto. Il titolo è appunto "Che cos'è il benessere e chi lo produce?". Si terrà l'incontro al Morgagni, in aula nell'auditorium A alle 16.30, e appunto siamo voluti partire proprio da una domanda per quanto riguarda un tema così fondamentale qual è il benessere, perché appunto lo sguardo sarà rivolto al discorso delle istituzioni totali, e abbiamo fatto una riflessione riguardo appunto la nascita delle istituzioni totali come luoghi dove dovrebbe esserci il benessere, dove dovrebbe essere costruito. Specifichiamo, per istituzioni totali intendiamo? Esatto, intendiamo istituzioni quali carceri, quali appunto ex manicomi, ma ora anche reparti di psichiatria, ma anche la stessa scuola, l'università, e quindi ambiti di formazione. E quindi dunque partiamo da una domanda: che esistono queste istituzioni, dovrebbero, come ad esempio le carceri, dovrebbero formare, dovrebbero rieducare per poi riportare alla società, ma fanno veramente questo? E dunque saremo aiutati in questo discorso ai relatori, che appunto saranno Silvano Cacciari, che è ricercatore in sociologia, Edvige Facchi, psichiatra invece, e Carlo Botrugno, anche lui dottore, ricercatore di scienze politiche. E abbiamo appunto preferito e privilegiato l'affluenza di diverse figure da diversi ambiti, proprio per trattare il tema da una prospettiva più ampia e più completa. E quindi ci sarà Botrugno, che parlerà del diritto alla salute, la Facchi, che ci porterà in campo l'esperienza nei reparti di psichiatria, e appunto Cacciari invece analisi sociologica. E questa è appunto la seconda giornata. Interessante, molto interessante questa giornata sulle istituzioni totali, anche perché fra l'altro, ma sono cambiate nel tempo queste istituzioni, perché ormai, beh, i manicomi sono stati aperti e chiusi, ma si parla ormai di quasi un secolo fa. Mm-hmm. E erano stati costruiti con un determinato, in un'ottica che poi, diciamo, il corso della storia ha portato l'umanità a andare verso altre direzioni, cioè, la globalizzazione, il consumismo hanno inciso, hanno modificato lo stato di fatto delle istituzioni totali? Beh, questa è sicuramente una domanda che poi cercheremo anche di a cui cercheremo di rispondere anche durante l'iniziativa. Sicuramente ci sono delle, ovviamente, cioè gli ospedali, le carceri magari di 40, 50, 60 anni fa non sono le stesse di quelle che magari possiamo trovare oggi. Comunque ci sono delle forme di pensiero che anche all'interno delle carceri stanno cercando di lavorare per creare una forma carceraria che sia di reinserimento nella società piuttosto che semplicemente di penale, ecco. In realtà poi bisogna fare i conti anche con quelle che sono le realtà, e quindi nella maggior parte dei casi anche le più elevate teorie, i più elevati pensieri nella realtà non vengono poi, sono difficili da realizzare, perché appunto il problema dell'istituzione sociale è che è talmente radicata e talmente diffusa poi anche a livello culturale, per cui per abbatterla non basta una legge, non basta cambiare anche un edificio, cioè mettere appunto fuori legge il singolo edificio, il singolo manicomio, ma bisogna fare poi anche un lavoro molto più in profondità culturale per evitare che poi insorgano magari in forma diversa però strutture o luoghi che poi però facciano se, appunto si parlava della legge Basaglia, ormai sono passati 41 anni se non mi sbaglio. Oggi, sì, 41, e sì. Quindi è un po' questo l'esempio, no? Una legge non è bastata alla chiusura dei manicomi, ci sono voluti ancora, siamo in un percorso che sta di declinazione di un concetto poi nella realtà. Anche, cioè, il titolo di venerdì 15 marzo è interessante in questo senso qua, no? Che cos'è il benessere e chi lo produce, no? Perché si va sempre, anche negli altri titoli, no? Si legge psicopatologia del processo migratorio, si va a vedere comunque dei problemi in linea di massima, no? Strategie di resistenza, di liberazione, di salute, comunque, cioè tutti gli altri titoli si va a vedere, insomma, l'intervento su un problema o comunque il focus comunque del discorso si parte da lì, insomma. Partire sul benessere è interessante perché appunto alla luce di quello che si è detto anche adesso, no? C'è bisogno di promuovere a livello culturale un cambiamento. Certo, deve essere la comunità poi alla fine come parlare di benessere, appunto, cioè è fare un pezzettino in più, ecco, non fermarsi alla patologia ma andare a parlare del concetto di salute per quello che è adesso, che dovrebbe essere adesso. Eh sì, e infatti un po' la terza giornata va sulle pratiche di resistenza comunitarie, quindi diciamo che si può allargare il concetto di benessere alla comunità di fatto. Se una comunità, all'interno della comunità ci sono delle persone con problemi di ordine di salute, la comunità non è sana a tutti gli effetti. Esatto, in parte. È proprio quello l'obiettivo, cioè cercare comunque un percorso, comunque una prospettiva di rete, che faccia rete, a partire dalle piccole forme di associazione, quali possono essere appunto delle collettivi, delle comunità, e quindi anche per questo gli invitati, anche per questa ultima giornata, diciamo così, un po' più di dibattito, che si terrà mercoledì 20, sempre di marzo, appunto strategie di resistenza, di liberazione, di salute. Gli interventi saranno vari, a partire appunto dallo studentato autogestito Ponte di Mezzo, ma anche interverranno il Mondeggi e Chile della Balanza, che appunto è compagnia e l'ex OPG. E anche appunto l'ex OPG. Poi ex OPG, cioè in una parlando di istituzioni totali, fra l'altro. Esatto, che verranno appunto da Napoli. Chi meglio di loro, direi. che hanno fatto rinascere un OPG immenso. E è veramente un'esperienza incredibile trovarsi nel... Loro lo chiamano, lo spazio fuori lo chiamano l'ora d'aria, quindi il cinema è nell'ora d'aria. E io ho assistito a una proiezione di un film l'anno scorso in queste cortili, ancora recintati, ancora di fatto si vede che erano luoghi adibiti all'ora d'aria, di fatto. Molto bello, veramente una bella esperienza. Non vi fermate qua voi, perché avete anche dei laboratori artistici. Sì, allora anche l'anno scorso, a fine della nostra iniziativa, avevamo fatto uno stage teatrale in collaborazione con i Hill della Balanza, dove avevamo messo in scena un SPDC, quindi un reparto psichiatrico ospedaliero. Quest'anno abbiamo riproposto lo stesso format dell'iniziativa e abbiamo inserito nuovamente uno stage teatrale a chiusura dell'iniziativa. Questa volta il lavoro vorremmo farlo sulle REMS. Qualche settimana fa siamo stati a Volterra, alla REMS di Volterra. Ecco, spieghiamo che cosa è una REMS. Le REMS sono appunto le strutture, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che nascono dopo la chiusura degli OPG. Quindi, recentissima chiusura degli OPG. Recentissima, esatto. La legge è del 2014, mi pare. Comunque la chiusura effettiva risale a pochi anni fa, 2017. Più o meno sì, l'OPG di Montelupo era attivo fino a un paio d'anni fa, se non mi sbaglio. Esatto. Poi... E, le REMS, la differenza principale e l'intento appunto nell'apertura delle REMS è quella di passare da una struttura che era comunque una struttura carceraria, dove semplicemente il tipo di carcerati che affluivano a questa struttura erano persone con disturbi psichiatrici, mentre la REMS è una struttura che ha una di valenza sanitaria, quindi l'idea è quella di andare a garantire comunque un diritto, che è quello il diritto alla cura, alla salute, a persone che appunto hanno commesso un reato e sono state prosciolte con una perizia psichiatrica. Beh, è un passo avanti, quindi. Sì, è un enorme passo avanti. Ma comunque, nella teoria o nella pratica? Nella pratica... ci sono molte contraddizioni, perché comunque rimangono le contraddizioni che uno trova all'interno della psichiatria, perché comunque hai una struttura che è chiusa, è molto molto chiusa, quindi le persone sicuramente all'interno sono è come se fosse un piccolo ospedale. Quindi non hai un'altra istituzione statale. Sì, tutto sommato. Sì. No, comunque effettivamente bisogna valutare anche quali sono i passi avanti e i lati positivi. Sicuramente l'OPG era veramente un manicomio, proprio in termini anche di brutalità, di violenza. Qui comunque le persone che lavorano all'interno di una REMS è personale sanitario, non c'è contenzione, quindi comunque le condizioni di vita sono migliori, anche se resta il fatto di che sono isolati. Esatto, che sono isolati, e quindi comunque almeno per quanto riguarda la questione dello stigma, è un forte peso che queste strutture si portano dietro. Perché comunque se isoli persone perché hanno un disturbo psichiatrico, e quindi in qualche modo la funzione sotto sotto permane quella tendenza alla pulizia e alla nascondere quello che è effettivamente la devianza. Poi, sì. È complesso. È complesso perché ogni caso è peculiare, andrebbero poi analizzati veramente singolarmente quasi, Io non lo so, l'esperienza che ho avuto nel campo della psichiatria è sempre enormi difficoltà a classificare, incasellare disturbi di salute che sono veramente molto vari anche tra persona e persona. No, sicuramente appunto l'etichetta non è molto difficile, poi... non deve... C'è chi dice che è anche insensata l'etichetta, o almeno... Noi appunto è possibile trovare un'intervista che abbiamo fatto io e Grippo qui su Radio Wombat a questo giornalista, che è Robert Whitaker, magari poi ve la mandiamo, che lui diceva che le categorie in ambito psichiatrico sono state inventate per poter dare dei farmaci a queste patologie. Questo lui parlava degli anni 70, dei primi, era prima della legge Basaglia, quando è stato costruito il primo manuale della, della farmacopsichiatria. Sto dicendo boiate, termini assurdi a caso, però il concetto è quello. Il concetto c'è, lui non sosteneva, c'è tutto. Che, sosteneva che proprio le, la classificazione delle patologie psichiatriche è venuta in, in seguito alla necessità del, da parte del, del, dell'economia farmaceutica di vendere, di vendere determinati farmaci per determinate patologie. Poi l'efficacia è discutibile, però, no, però questo apre un discorso esatto. immenso che forse possiamo non approfondire in questa sede, ma durante sì, un pezzo sì, sì. che Grande Lago fra un po' ci manderà. Sì. Bene ragazzi, avete allora qualcosa da dire? Sì, nel senso che intanto il collettivo Il Percorso Psiche avrà una pagina Facebook, avrà un... Esatto, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo anche un'email che è percorsopsichemail@gmail.com per chiunque volesse contattarci, e però naturalmente il grosso del, del nostro lavoro lo potete seguire dalla pagina Facebook, quindi tenervi aggiornati, esatto. venire alle iniziative sicuramente. Alle assemblee forse? Sono aperte? Sì, le assemblee sono apertissime, non abbiamo ancora un luogo. Questo è un punto su cui dobbiamo lavorare. Siamo, abbiamo iniziato a fare riunioni comunque a settembre, perché prima tutto era finalizzato alla, all'iniziativa dell'anno scorso, però il collettivo di per sé è nato a settembre scorso, quindi stiamo lavorando sul luogo. Ci piacerebbe entrare dentro San Salvi anche come luogo simbolico, però ovviamente lì è molto difficile, c'è l'ASL, ci sono tante, tanti problemi, però sono aperte. Solitamente ci troviamo il mercoledì sera, quindi contattateci se volete venire a riunione, esatto. assemblea. Dicevamo, siete vicini ai collettivi di psicologia e di medicina, quindi eventualmente magari se... Sì, appunto, poi siamo nati da collettivo di medicina, appunto, Codice Rosso. Ah, anch'io ero un Codice Rosso! Sorpresona, anche pizza! E psicologia, laboratorio 15. Però, appunto, ora come ora ci siamo allargati, vengono studenti da moltissime altre facoltà, scienze della formazione, SECI, giurisprudenza, lettere, quindi davvero aperto a qualsiasi studente e non. E appunto un'ultima cosa, un ultimo appunto, volevo ribadire appunto del, dell'evento teatrale del 24, che è assolutamente aperto l'iscrizione a tutti, quindi insomma anche in questo caso se siete interessati a, alla partecipazione di contattarci. Gli eventi teatrali in collaborazione con i Hill della Balanza, esatto. tra l'altro, e li salutiamo, li ricordiamo perché sono presenti a San Salvi da 30 anni forse, dal 97, portano avanti un lavoro direi egregio. Io ho assistito alle passeggiate, ho assistito a diverse cose di loro, e, insomma con D'Ascoli, sì, veramente un piacere. Bene, detto questo, rimanete con noi? Sì, dai. Sì, rimaniamo un altro dai, po'. Dai, bravo. Brave, brave. Andiamo a pezzaccio intanto? Wow. Vai. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back. Get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high, don't go screaming if I blow you with a bang. Ah, suki suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen, take it, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life. I'm going, gonna have you saying it. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going up to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Allora, non abbiamo la sigla, ma intanto Candelago la prepara, così noi vi intratteniamo con un po' di cazzate. No. Dario Nardella e Budetti Suma, vai, si parla. Allora, no, due parole sull'8 marzo si possono fare, abbiamo visto il corteo l'altro giorno. Non si andava con la Nardellata. Sì. Ce l'hai pronta la sigla? No. Allora, ma non c'è la sigla. Non c'è la sigla. Vai. Non ce l'ha. Vabbè. C'è. No, non c'è. Vale, figo. Dai, dacci le news su Darione direttamente. Allora, dai, Fizza. Io, allora, sono su Facebook in questo momento. Ha creato un sondaggio il buon Darione l'8 marzo alle ore 15:58. È andato 90% sì, sono favorevole, 10% no, sono contrario. E qui vi faccio già lo spoiler prima ancora di dirvi di cosa stiamo parlando. Ti piace vincere facile? Beh, con le strisce blu. Certo, certo, certo. La nuova bomba lanciata da Nardella. Oltre allo scudo verde abbiamo scudo verde e luna, la penultima blu. E strisce blu. Si va di colori Nardella ultimamente. E niente, la proposta è quella blu di... verde, è pericoloso sto blu verde, non so, colori. Sì, boh. Della Lega. Lega un sì, tempo era verde e poi diventava blu. Darione, sull'onda trampiana. Darione vuole confondere un po'. Ma le certo, ma certo. Ma certo. Io ho visto, fra l'altro, con questo introduco anche alla prossima notizia riguardo a Nardella. Ho visto Giorgetti che si vantava come un gallo del loro operato e rimproverava il governo leghista che ancora per i 250 sbirri che doveva mandargli Salvini, li ha mandati, ok. Poi dice gli ha finanziato poco le telecamere, gli ha dato solo 400.000 euro mentre i governi precedenti gli davano 5 milioni. E quindi lui è incazzatissimo, dice: oh, ma che sta a fare? Ma non schiappe. È che le telecamere le costa meno perché sono più accessibili. No, sicuro, non lo so se costa meno, di sicuro è che... No, ne stanno mettendo un botto. Sì, appunto. Nardella. Comunque no, volevo finire il discorso perché Nardella sui parcheggi ha detto: se vinco, se vengo eletto. No, ce l'abbiamo il video, ce l'abbiamo l'audio, scusate. Ce l'abbiamo l'audio che Glandelago sta prontamente preparando, ma sì, no, sarebbe già preparato da prima. Vuoi? Sentiamolo. Qui l'idea, nel caso in cui sarò rieletto, di creare uno scudo verde intorno a Firenze. Vabbè, a favore dei fiorentini, che serva a diminuire il traffico e lo smog, filtrando non solo i bus turistici ma anche i veicoli più inquinanti. Vabbè, e l'idea di aumentare le aree pedonali. Dai. Inoltre nel mio programma elettorale prevederò anche parcheggi anche gratuiti, ecco, per là, tutti i residenti in tutte, oh, le ZCS, quindi non vi, in tutte le strisce, quindi blu, vi, i residenti di ogni quartiere potranno parcheggiare gratuitamente anche negli altri quartieri del comune. È buona sta cosa, no? Ma lo facevamo già, Dario. È buona. Si metteva in conto una multina ogni 3 o 4 vabbè, anni. Vabbè, buona, però, è sempre funzionato così. Ma secondo te, no, è una roba che... uno dei commenti più belli che ho visto sotto è: Dario, non devi aspettare di vincere, sei già sì, sindaco. Mi hanno scritto. Era tutto sommato... se l'era tenuto buono. No, sì, però io ho visto stanno asfaltando duro le strade spaccate, ma duro duro, cioè veramente spianate di asfalto. Negli ultimi 2 mesi fanno il rush finale. E poi mi veniva in mente anche le aree pedonali. Le aree pedonali, che chi può andare contro le aree pedonali? Però bella, vediamo un po', possiamo vedere come sono state usate a Firenze. Bella. Le aree pedonali, inquietante. Il nostro compagno, ormai, cioè, tutte le volte. Tranvia, sì, tranvia, sì, esatto. Cioè, tranvia. Ora in passato il mood era quello di dai, cioè, porto la tranvia, così il traffico sparisce, si risolve tutti i problemi. Invece, poi anche questo è passato perché si è reso conto che, evidentemente, non ha funzionato. Ho visto che casino c'è per le strade di Firenze. Ma lui dice che è diminuito di tot. Vabbè, però sì, forse stiamo scadendo un po' al bar. Sì, stiamo un po' scadendo al bar in questo momento. Sì, siamo un attimino. Allora, torniamo alle telecamere, perché appunto festeggiavano un paio di giorni fa Nardella e l'assessore Giorgetti per la 600ª telecamera. 600ª telecamera che è stata posizionata davanti alla Montagnola. Alla Montagnola, esattamente, proprio alla Montagnola. Infamavano i leghisti che non gli danno abbastanza quattrini per le loro questione di sicurezza. Vabbè, sbirri, non aveva andato, nuovi sbirri, nuove telecamere, nuovo, esatto, tutto, sì, cioè, ma che vogliono? Sono a 600. Io vi ricordo che il 2 gennaio fu impiantata la prima telecamera dell'anno e si era circa a 500 telecamere all'epoca. Quindi sono passati 2 mesi e mezzo e siamo già a 600. Loro hanno l'obiettivo di arrivare a 750, quindi ci sono quasi. Questo è ovviamente un casino, perché noi la sicurezza che loro promuovono non torna per niente. Noi iniziamo a dirvi invece dove sono le telecamere. Iniziamo dal centro e vi posso dire che in Piazza Indipendenza, almeno sulla mia mappatura, che naturalmente non è aggiornata, questi vanno come dei treni, cioè come si fa a stare dietro? Comunque in Piazza Indipendenza ce ne sono ben 3, una praticamente andando verso la fortezza e 2 andando verso San Lorenzo, agli angoli della piazza. In Piazza San Marco ce ne sono 2, uno all'angolo con via 27 Aprile, sul lato sud, mettiamo così, e una di fronte alla Basilica di San Marco. Si prosegue andando verso Piazza Santissima Annunziata, ce ne sono ben 3 o 4 davanti all'Istituto Geografico Militare e 3 vicino al Museo degli Innocenti, 3 o 4 anche lì vicino al Museo degli Innocenti. Il mercato centrale ci sono una telecamera per ogni angolo del quadrilatero, così come anche in via Faenza ce ne sono 1, 2, 3, una all'inizio, 2 nel mezzo e una alla fine. San Lorenzo è un casino. Sul Sagrato, vicino al Sagrato della Chiesa, ce ne sono ben 1, 2, 3, 4 vicino all'angolo con via dei Ginori. Boh, tutte insieme poi sono. Tutte insieme. Dietro la cappella ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 praticamente nella strada di fronte alla cappella. Piazza dell'Unità ce ne sono 3 sul lato, quello alla destra dell'hotel Baglioni, sti coglioni, e ben 4 su via dei Cerretani. Il Duomo è pieno. Il Duomo ce ne sono sul lato nord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 praticamente fino a via cos'è questa qui? Non è via Guelfa. Se volevate spugnare il Duomo, abbandonate. Esatto, abbandonate, perché poi ce ne sono anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sull'altro lato. Male per voi, amici. Uno solo in Piazza della Repubblica vicino al Caffè Pascoschi. E wow, Piazza della Signoria ce ne sono un botto. Poi guarda lì sul Lungarno. Il Lungarno è pieno. Il Lungarno vicino al vicino al corridoio Vasariano e agli Uffizi ce ne sono tantissime. Dietro gli Uffizi, questa qui è la città, quella turistificata, si può dire veramente il pieno. In Piazza Tasso ve ne sono, in Piazza del Carmine. Che ce n'è un botto lì? Questa secondo me è Piazza del Carmine. Ah, e boia, ce ne sono tantissimi. No, questa qua è Santo Spirito. Santo Spirito, Santo Spirito è piena di telecamere. Occhio, ce ne sono 2 ai lati del Sagrato, praticamente 10. Sì, una decina. Una decina di telecamere anche lì. Con questo noi stiamo iniziando l'opera di mappatura delle telecamere e prontamente cercheremo di farvele sapere e magari anche di segnalarvele. Sì, sarà un casino. Sarà ragazzi, un casino perché sono tante, certo. Sono tante, state fate attenzione. Sono tante, ma piano piano riusciamo a beccarle tutte. Siete 150. Sì. Boia. E sti cazzi. È un lavorino di nulla. Senti, comunque Nardellone che combina poi? Ma poi cioè, per l'8 marzo ha combinato una delle sue, no? Ha intitolato il grande ponte, la tranvia, la super sopraelevata della tranvia. Sì, boh, sì. Ma ho visto. A maggiorità che tra l'altro, cioè, incredibile perché l'AC si è incazzata così tanto che gli ha fatto pure guastino. Mi sa. Cioè, oggi c'è è stato, vero, è vero, è vero. È stato inconveniente. È vero, si è piantata la tranvia sul ponte. Che da su fa, madonna, Nardella merda, senza, gli ha fulminato ogni bene. Vabbè, sentisse queste cose Margherita Hack, cioè sentisse no quello che si dice noi, quello che ha detto Darione, cioè se veramente Margherita con noi. Però Darione, insomma. No, cioè Sì, no. Va bene, questa cosa dei varchi dei varchi verdi, come l'ha chiamata? Lo scudo verde. Qui ci sarebbe da fare un po' una contronarrazione, o almeno è lui che fa la contronarrazione di quello che realmente accade. Perché? Perché cioè, è sempre la solita faccenda. È inutile che zeppi la città di turisti e non venire a dire cazzate, perché è un nuovo aeroporto, cioè se ora adesso sono 10 milioni di visitatori l'anno, fra quando ci sarà l'aeroporto saranno 20, se non 30. Cioè, che cazzo stai a dire? È inutile parlare di scudo verde quando la rimpinzi e fai di tutto perché sia piena di investitori e di conseguenza anche di turisti. Quindi il tuo scudo verde, per favore, fatelo in casa tua, se ti ci piace proprio. Firenze mi pare la seconda città italiana per appetibilità di investimenti, giusto? Sì, sì, sì, sì, ha superato mi sa Milano. È arrivata ora mi sa subito dietro Venezia. E anche la sì, mi sa anche dopo Venezia è la città con più turisti l'anno. E è un calcolo difficilissimo. E sì, lui spera con queste misure, ecco, un po' come quando diceva va bene l'Airbnb è vero distrugge l'economia locale, allora facciamoli pagare di più quelli che vengono, aumentiamo la tassa così. Sì, che culo, però cioè, non argina per niente, non argina per niente, no, non argina per niente, non solo non argina per niente, ma porta avanti questa retorica dell'antituristificazione che però turistificando esatto, turistificando non gli appartiene veramente per niente. Noi ci possiamo rifare un po' a quanto detto, quanto pensato dalla rete 7 negli ultimi tempi, ma soprattutto negli ultimi giorni, e insomma viene fuori in modo palese il ruolo dei politici, delle amministrazioni locali delle città italiane del sud Europa, ma in particolare appunto abbiamo citato Venezia, Firenze, Roma, Napoli. Hanno la loro responsabilità e è bella grossa, perché non sono sicuramente in cima alla piramide, c'è sicuramente chi è più potente di loro e quindi loro in un certo senso si devono inchinare alla forza della nuova economia, della nuova industria, però ecco, fra inchinarsi e opporsi c'è anche un po' una via di mezzo che però a Darione sfugge, così come, come tante cose, tante sono le cose che gli sfuggono. Non gli sfugge il fiorino d'oro all'arma. Non gli sfugge però il fiorino d'oro all'arma dei no, così carabinieri. Stavo un po' scrollando, come si dice, no? Com'è che dicono gli hackers? Eh sì, fiorino d'oro all'arma dei carabinieri, ma c'è anche la motivazione? Ce lo dici il perché? Aspetta. Presente il capoluogo toscano fin dal 1861. Allora, la forma. A Firenze, sì. Solo per citarne alcune, possiamo. Proprio dell'arma dei carabinieri, torniamo a battere lì sulla. Come si chiama? Sul commissariato Oltrarno, sulla caserma di Oltrarno, che nel palmare elenca, direi, uno stupro, anzi due stupri fatti da carabinieri proprio della centrale, quelli più noti, cito l'omicidio di Magherini, avvenuto proprio lì a San Frediano, a due passi dalla centrale. Quindi già questo mi sembra abbastanza per dare un bel fiorino d'oro, certo. E insomma, come lo giustificano? Ma boh, qua sto leggendo Angeli del Fango, novembre sì. 1966, cioè boh, insomma, sì. Festeggiano vecchie glorie. Okay. Cioè, okay. Aspetta, sto seguitando perché... Sto fiorino d'oro un po' così, dai. Ma sì, un po' così. Un po' come tapiro. È un po' un tapiro d'oro? No, di garba farsi fotografare con roba d'oro in mano e da qualcun altro, funzionava così in Nardella ultimamente. C'era anche a un ristorante l'altro giorno, era lì dava la targa così. Ora fiorino d'oro a tutti. Guarda, se tu passi, ecco va la trattoria, la vai musica. Vai, va pure. Bene, senti Fizzo, lasciamo Nardella con i suoi giochetti. Ma che devo dire? A gingillarsi, perché noi parliamo di cose serie ora. Certo, cioè? È arrivato un ospite dietro di noi. Oh. Stacchiamo una canzoncella e poi la facciamo accomodare con calma. Ma sì, dai, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Dopo vai, il vostro delirio su Nardella. Sì, stavo... Vai, forza disco label. Pompa. Ladies and gentlemen, siamo qua stasera. Welcome. Welcome on board. Benvenuti al cinema. Faccio la sigla, sì, le belle stellari. Si parla di cinema con la Virgi. Ciao a tutti, ciao a tutti. Buonasera. Oggi raffreddatissima, quindi veramente la voce è sempre più così profonda, arriva da deep, ok. Ciao che a cinerri? Tutti, che allora meritano del cinema sì, settimana? Sì, in realtà beh, merita sempre. Brava. Per me, sì. Però io ho un problema, quindi, come tutti così gli addicted. Allora, questa settimana di nuovo i tre best spazi cinematografici che poi sono tutti in centro, quindi in realtà facilmente raggiungibili, di cui di solito parliamo, sono di nuovo il Cinema Teatro della Compagnia, il Cinema Odeon e il Cinema Spazio 1. Che viva Spazio 1, sì, è rinnovato, vero? Spazio 1 è rinnovato e fa una programmazione piuttosto interessante. Faceva anche prima. Sì, però ultimamente vedo che insomma si sono messi abbastanza d'impegno e rispetto anche altri cinema fa degli orari anche abbastanza umani. Rispetto invece al Teatro della Compagnia purtroppo fa tantissima roba, però tutta durante il giorno, non la, quasi mai dopo, insomma, quindi è più difficile beccarla, a meno che uno non è uno studente o qualcuno che ha insomma più tempo libero durante il giorno. Partirei però in realtà, anche se l'ho infamato in questo momento, col Cinema Teatro della Compagnia, perché prosegue le sue rassegne sui festival. Anche questa settimana c'è un, oltre alla programmazione che fa, un festival interessante che si chiama Archeo Film Festival, la sua seconda edizione, che è un festival che presenta film documentari a base appunto a tema archeologia e ambiente. Ma c'è un sacco di roba interessante. Ora qualcosa, ma sfocia anche nel fantasy? Qualcosa sì, perché ho visto qualcosa sull'antico Egitto, però mi sembra un po' da tempo. In realtà diverse cose sono abbastanza specifiche. Okay. Oggi, che se mi ricordate il giorno sarebbe bellissimo. Oggi è l'11. Oggi è l'11, benissimo, grazie. Lunedì 11 marzo. Grazie mille. Prosegue in realtà il ciclo, non so se conclude oggi, forse no, però insomma sta proseguendo il ciclo su Tarantino, di cui avevamo già parlato nelle altre puntate, con uno splendido film, Jackie Brown, alle ore 21. Ecco, questo è quello che riuscite a beccare oggi del Cinema Teatro della Compagnia, perché ovviamente, per come andiamo in onda noi in diretta, sono già quasi le 6:30, quindi ce la fate alle 21. Prima del film, in realtà, c'è come sempre un approfondimento, come fanno sempre in questo ciclo su Tarantino, e che è un incontro di approfondimento Saletta My Movies, che massimo 30 posti gratuito, non so che sarà una parte del cinema, su Jackie Brown. Quindi questo è ingresso libero, e poi il film alle ore 21, per chi non l'avesse mai visto, un film del 97, veramente tra l'altro un adattamento di un romanzo che si chiamava Puncher Room, di uno degli autori preferiti di Tarantino, e si vede appunto, si chiamava Elmore Leonard, si vede che Tarantino ha amato il romanzo, perché il film è veramente veramente insomma imperdibile, secondo me è uno dei più interessanti forse del regista. La protagonista Pam Grier era un ex star della Blaxploitation, dei film anni 70, quindi insomma, ecco, ormai è datato, però diciamo regge, insomma, tiene botta. Per chi non l'avesse mai visto, assolutamente imperdibile. Proseguendo sempre per il Cinema Teatro della Compagnia, martedì, interessante per chi ama la storia della moda e il fashion in generale, c'è un bellissimo documentario su Alexander McQueen, recentemente insomma scomparso, genio della moda, e lo programmano diverse volte durante la settimana. Insomma, torna in programmazione sempre qui. E, ma quello del gatto? Quello del gatto? Quello del gatto? Quello del gatto. Teschio? Quello del teschio con i diamanti, l'hai mai visto? No, vabbè, no, lei sbaglio, non ce la può fare, guardi, su questo argomento. Bocciato. Non ho niente. Moda e cinema. Niente. Bocciato. Andiamo avanti. Di moda si parla. Di moda e alle 21, bravo, mi dà sempre soddisfazione. Alle 21 di martedì, quindi di domani, abbiamo invece un'interessante lezione / proiezione sul giallo e noir a cura del professor Stefano Socci, in cui si presentano diversi esempi di cinema noir molto belli, da Hitchcock a De Palma, sì, ed è, credo sia strutturata come una lezione, non l'ho mai fatto, però è molto interessante ed è a 2 euro per gli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Per esempio c'è questo sconto, fusione di giallo, noir, thriller, diversi esempi, insomma è più una lezione, però per chi fosse interessato, molto interessante, Cinema Teatro della Compagnia. Prosegue appunto durante la settimana questo festival di cui appunto abbiamo annunciato, Archeo Film Festival, tutto a tema archeologia. Ora non vi sto a dare tutto il programma perché ci vorrebbe troppo, però lo trovate sul sito del Cinema Teatro della Compagnia, e ci sono anche appunto documentari sulla Strada dell'Arte, documentari sull'Antico Egitto, ma anche sull'archeologia in Toscana, insomma più local, e ce ne sono veramente tanti, e questo prosegue durante tutta la settimana. Bene, invece al Cinema Odeon in Piazza Strozzi, che è famoso appunto così per le sue proiezioni in lingua originale, ci sono sempre film in lingua originale durante questa settimana, però vi vorrei segnalare in particolare due eventi, e uno è martedì, questo quindi domani, alle ore 21, una proiezione unica, un documentario su Diabolik. Si chiama Diabolik, sono io, per gli amanti del fumetto. Ah, il fumetto proprio Bonelli. Esatto, no, è una storia interessante. Sì, sì. Sì. È una storia molto interessante perché è la storia del primo disegnatore, proprio di quello che fece le prime tavole, che poi sparì. Nessuno più ha saputo che fine aveva fatto. Quindi è proprio un documentario intrigante. Molto interessante, perché c'è anche dei contributi di scrittori, Lucarelli, di altri registi. È proprio un docufilm, sul sito ovviamente trovate tutta la descrizione, un'indagine avvincente sul mistero del primo disegnatore di Diabolik, inspiegabilmente scomparso senza lasciare traccia dopo aver consegnato il primo albo della saga. E niente, racconta la storia dell'eroe appunto, che nacque dalla fantasia delle sorelle Giussani, ma che poi appunto fu disegnato da tantissimi. E penso che continui ancora oggi, fra l'altro. Credo di sì, sì. Credo di sì. E niente, questo è molto interessante, appunto all'Odeon, ripeto, martedì ore 21, per chi fosse interessato. Un'altra perla dell'Odeon, da non perdere per chi non l'avesse mai visto, domenica 17, ridanno in versione restaurata capolavoro di Truffaut, Jules Jim, e vabbè, su cui non mi dilungherei oltre, chi non l'ha visto lo veda veramente. E c'è questa versione appunto restaurata in lingua originale del grandissimo capolavoro appunto della storia di questi tre personaggi, che comincia attorno al 1912 da Parigi e poi si prosegue appunto fino alla fine quasi del secolo. E appunto, per chi fosse interessato, per questa proiezione, ripeto, è domenica 17 alle ore 21, sempre al Cinema Odeon. Andiamo allo Spazio 1. Per concludere lo Spazio 1, questa settimana ci sono tre film in programmazione, da domenica 10 a mercoledì 13 in vari orari. Ora vi rimando al sito, perché è inutile che li rielenco tutti, tanto ve li scordate. Il nuovo film di Lars von Trier, La casa di Jack, appunto, dicevamo prima fuori onda. Un squartatore. Sì, pare appunto che sia ispirato alla storia di Jack lo squartatore, però è un film di Von Trier, quindi io non l'ho ancora visto, quindi non posso fare una recensione. È ispirato alla testa di Von Trier, probabilmente. Esatto. Ed è un mega cast, veramente. Matt Damon, un sacco di attori famosi, quindi non so come appunto come lui abbia reinterpretato poi la storia di Jack lo squartatore, ma credo attraverso quanto ho letto, attraverso episodi di omicidi al giorno d'oggi a cui poi si collega appunto, lui collega la storia di Jack lo squartatore. Però è un film di Von Trier, quindi scoprire per credere. Sempre da lunedì, quindi da oggi, fino a mercoledì 13 in vari orari, invece il film su Van Gogh di Julian Schnabel, l'ultimo con William Defoe protagonista, che dice è molto molto bello. E Schnabel, vabbè, chiaramente fa sempre film su lei, è un regista che tratta sempre l'arte perché è un artista, è stato appunto parte della Factory di Warhol, il film su Basquiat di qualche anno fa era suo, insomma è un film sicuramente da scoprire per gli amanti di Van Gogh, ma sicuramente anche per gli amanti di William Defoe, che dà veramente una bellissima interpretazione di questo artista molto tormentato. Mercoledì 13, ancora per un po', evidentemente lo tengono in programmazione, alle 18.45, sempre allo Spazio 1 in versione originale, Roma di Cuarón. Che ho visto ieri, ecco. Quindi è buono? Piaciuto, buono, sì, molto buono. Anche perché è una lettura, secondo me, e anche secondo Zizek, Slavoj Zizek, filosofo ben più importante di me, diciamo. Vabbè, questo non, non presumirmi, non secondo noi ovviamente, però ho dato una lettura, io non conosco intanto, ha dato una lettura, esatto, e non è meglio del lago, datevi del lago, no, che ha una lettura che ha vinto, come ha vinto diversi Oscar, tre Oscar se non tutti sbaglio, Oscar, il che di solito non è indice di grande, no, però infatti, in questo caso possiamo fare una, però la cosa divertente è che secondo me guardatelo perché ha una lettura molto sociale in realtà, che è passata, è stata lasciata un po' sotto, sotto, non è stata messa sotto i riflettori, diciamo, come lettura del film, che è stato letto più come una, guardate come sono belle queste due protagoniste donne che comunque in mezzo a tutte le difficoltà riescono ad andare avanti, ce la in un rapporto fare, molto, fra l'altro molto di servo padrone, sì, fra l'altro, mentre per tutto il film è collegato a triplo quadruplo filo alle vicende personali, c'è tutta la storia del Messico degli anni 70 e degli omicidi che vennero fatti durante tutti i moti studenteschi dal Stati Uniti, CIA e compagnia bella, che passa, che esce fuori e dà un senso molto più profondo e incazzato e compagnoso, mi verrebbe anche da dire, che non è stato letto, che non è stato, no, sicuramente non è stato, non è stato parlato, risalto, cioè nessuno, no, nessuna recensione, me ne sono letto un po' oggi, ne parlano di questa, di questo aspetto qua, mentre mi sembra abbastanza fondamentale e abbastanza anche cioè ci sono vari indizi che ce lo danno, che Cuarón lascia diversi indizi e ce lo fa capire, se uno vuole capire, se uno vuole intendere intenda. Quindi consigliato. La giuria dell'Oscar non l'ha inteso, altrimenti non gliel'avrebbe dato. Assolutamente e no. L'ha preso più come una, come dire, forse anche un po' un Oscar alla carriera, la Cuarón a questo punto. Sì, un po', sì, e anche un po' un'operazione estetica, perché appunto questo bianco e nero, questa fotografia molto bella. Però come dicevi te, appunto, probabilmente è fatto più da lui, tra l'altro, la fotografia. Sì, no, lui è veramente abile in questo. E quindi ecco, sì, direi consigliato, consigliatissimo. E questo era un po' così una panoramica di quello che di più interessante c'è al cinema in alternativa alla, chiaramente alla programmazione classica così mainstream che trovate poi in tutti i grandi cinema, quindi merda. Sì, ma anche o magari così più entertainment, se vi volete andare a vedere, lo so, Capitan Marvel di sicuro ve lo potete pompare. E ancora meglio, se prima di vedere Capitan Marvel volete guardare 40 minuti pubblicità. Ah, anche sì, sì, beh, le due cose vanno insieme. Se volete vedere Capitan Marvel, c'è anche quello i sedili particolarmente comodi. Sì, sì, sì, sì, molto. Visto che te la devi pompare per 40 minuti, giustamente è bene che stai comodo. Ma in realtà si sta comodi anche in questi cinema che vi ho annunciato. Spazio 1 è il mio preferito. Oddio, per te forse le gambe sono un po'. No, ma no, è il mio preferito. Sì, non c'è quasi mai nessuno. Non era Castello il tuo preferito? No, cambia no, sempre. Un Castello, io ho visto Roma a Castello. Castello, a Castello, Castello che spacca sempre. Castello è un po' così, un po' familiare, ecco. Sì, sì. Io amo molto questo nuovo, in realtà riaperto, Cinema Teatro della Compagnia, perché è stato chiuso per 20 anni. L'hai fumato all'inizio, quindi adesso. Non è tu vero. Ami molto, io non è vero. Te lo ami molto? Io lo amo perché l'ho amato in gioventù, me l'hanno tenuto chiuso 20 anni, me l'hanno riaperto e quindi... Ah, perché forse dico un po' una cosa... È un po' bourgeois ora, me l'hanno riaperto, esatto. Lo so. È un po', dà un po' l'idea del il cinema di sé gentrificato proprio. A me dà un po' noia questa cosa che non fanno orari la sera, quindi se vuoi vedere qualcosa devi riuscire ad andarci appunto in questi orari un po' scomodi. In fondo l'ultimo è alle 21, è veramente scomodo. Ah, e non prendete niente al bar perché costa un botto. No, vabbè, ovvio. L'Odeon, vabbè, non sto neanche a dirlo, l'Odeon è bellissimo, è super kitsch ovviamente, però super bello, poi con la citazione di Lorenzo il Magnifico sopra lo schermo, vabbè, l'Odeon era proprio un teatro, quindi insomma anche teatro, e quindi forse di tutti il più comodo e il più bello è l'Odeon, però fa quasi tutto in lingua originale, non tutti amano i film in lingua originale, io per me è obbligatorio. Mi sa che per voi, la pacca sta finendo per voi non amanti dei film in lingua originale, perché si sta andando verso... Per loro, perché io invece li amo molto. Vabbè, insomma, comunque questa era un po' così, grazie una panoramica mille. Veloce, grazie a voi e ciao. Viva viva. Prossima settimana. E direi che noi vediamo o facciamo un bel impastando si impara così. Così casuale. Che ne so. Guardiamo e guardo una persona nello specifico che voi non potete vedere, ma io sì. Niente impastando si impara. Niente. E allora noi chiudiamo. Vabbè, e ci sentiamo chiudiamo mestamente. Saluti a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo e dai, lunga vita al Wombat. Date retta e dategli retta al Wombat. Dategli retta, tra poco rassegna eventi e stasera Cocco dal Silicio e poi domani Home dal Palinsesto. Wow. Fuoco alle polveri. go how Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Io vorrei però ripristinare quella che è la verità. Cioè, i generi sono due. Continuiamo a chiamare signore e signore. I generi sono due, come nella lingua italiana. Visto che parlavamo di linguaggio, la lingua italiana, a differenza di altre, non ha nemmeno il neutro. Perché al femminile e al maschile. Ed uguale per noi esseri umani. Che al pisello un uomo, che alla vulva una femmina.